Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, siamo in pieno anticipo di primavera, ve ne siete resi conto? Dopo l'eccezionale ondata di maltempo delle scorse settimane, l'aria è diventata mite, con temperature, pensate, fino a 8 gradi sopra la media. Mettiamo pure in conto che l'inverno non ci risparmierà qualche colpo di coda, ma ci siamo, per essere più cauti, ci stiamo avvicinando. Respirate anche voi, l'aria è cambiata. Voi avete voglia di primavera e cosa vi aspettate da questa stagione? Luce, profumi, energia, stanchezza, irritabilità o starnuti? Chiamateci 800 24 0024 per raccontarci che effetto vi fa la primavera, una stagione di mezzo che ad alcuni tira su, ad altri butta giù. Buongiorno dottor Corradin. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Medico esperto di medicina tradizionale cinese e direttore del comitato scientifico di Le Fei Resort. Dottor Corradin, ci sono persone che, come la natura, in primavera si risvegliano, sbocciano, fioriscono, altre che sembrano quasi essere colpite dalla sindrome del letargo, che li rende stanchi, stressati, irritabili. L'aria è sempre uguale. Certamente, esattamente così. Come la medicina cinese è una medicina simbolica, analogica, quello che succede nella natura succede nell'uomo. Quindi, come in primavera, l'energia deve passare dalla profondità dell'individuo verso la superficie. Se questi due movimenti di energia non avvengono in modo corretto, abbiamo, se avvengono troppo poco, una stanchezza continua, la voglia costante di dormire, stanchezza durante tutto il giorno. Se invece avviene in modo eccessivo, ci sentiamo particolarmente nervosi, agitati, irritabili. Quindi, come sempre, la relazione fra mondo che ci circonda e mondo che sta all'interno dell'uomo. Dottor Corradin, per tirarci su, o per essere più elegante, per riequilibrare l'assetto energetico globale di cui si occupa la medicina cinese, che cosa possiamo fare? In questa stagione ci sono due punti che sono stati individuati particolarmente dagli autori francesi, che si parla di punti di tonificazione stagionale, che sono i punti che in questo periodo dell'anno danno maggiore energia al corpo. Sono quei punti che hanno la funzione di alzare l'energia quando si muove poco dalla nostra profondità, oppure comunque regolarla, abbassarla quando si muove in modo molto impetuoso. Si tratta di due punti che sono posti entrambi nell'arto inferiore, il primo è posto nello spazio interdigitale fra il quarto e il quinto dito, il secondo è posto nel ginocchio, sul lato interno del ginocchio. Se noi pinziamo come un respiro, facciamo delle piccole pressioni e poi rilasciamo nello spazio interdigitale, oppure facciamo sul punto interno del ginocchio dei piccoli massaggi rotatori rapidi, questi due punti posti, ripeto, sul piede e sul ginocchio hanno la funzione di riequilibrare l'energia di tutto l'organismo, detto in altri termini, permettere alla nostra primavera di fiorire nel modo migliore. Dottor Corradin, tutti i giorni mattino e sera? Tutti i giorni mattino e sera, due volte al giorno, per 7, 8, 10, 15 giorni, in questo periodo intervallare in cui non è ancora finito l'inverno, non è ancora decisamente cominciata la primavera, questa funzione di riequilibrio globale. E così l'aria di primavera può entrare dentro di noi con il ritmo giusto, producendo un piacevole benessere. Dottor Corradin, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Un abbraccio a tutti. c'è già chi sta cominciando a starnutire e a lacrimare. Anche questo è segno della primavera che sta arrivando. E qua in studio con me ho il dottor Attilio Speciali, specialista in arcologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno, dottor Speciani. Buongiorno a tutti. Sì, arrivano starnuti, occhi che sembrano più umidi, pruriti al naso. Anche questo è un segnale della primavera che sta avanzando. Ma ecco, il segnale della primavera è un segnale importante di qualcosa che cambia. E io credo che questo sia uno degli aspetti più importanti dell'immunologia moderna, perché per anni si è data fondamentalmente la colpa ai pollini, al cibo, all'inquinamento, cioè sostanze esterne che diventano, come dire, cattive in quel periodo per l'organismo. Ecco, quello che sta emergendo in modo estremamente ampio è che alla fine il polline è una specie di goccia che fa traboccare il vaso. Questo è estremamente importante, nel senso che c'è un'infiammazione strutturale dell'organismo, l'allergia diventa un segnale di uno stato di troppo pieno, diciamolo, sì, in questi termini. Mi piace peraltro, per considerare questo, parlare proprio dell'allergia come se fosse un segnale di comunicazione esterna, anche perché le forme, pensiamo un po' in natura, un battero, noi sappiamo che dà, un virus, danno particolari tipi di manifestazione. Uno riconosce immediatamente come sono le bolle da varicella piuttosto che da altre sostanze. Per le sostanze estranee che danno allergia, cosiddetto, alla fine abbiamo in tutto 5-6 manifestazioni, per centinaia di migliaia di sostanze diverse. Questo avviene, e ce l'ha insegnato molto la Montalcini questo, perché spesso c'è un aumento del livello di infiammazione interno legato ad esempio allo stress psicoemotivo. Lo cito in maniera velocissima. Nel periodo ad esempio in cui c'era la guerra nel Kosovo e contemporaneamente altri elementi, avevamo gli aerei che partivano dalle nostre basi, quell'anno c'erano in corso 3 guerre e gli italiani avevano avuto un aumento del livello di allergia potente. Stagione dei pollini o stagione problematica? Quest'anno ce lo domandiamo. Siamo in una fase di forte cambiamento. Avremo il senso della ripresa o la paura del prima? E oggi, proprio che vogliamo parlare di aria di primavera, e declineremo questa parola in tanti modi, vogliamo farvi proprio una domanda relativa all'aria. La temperatura dell'aria che respiriamo con il nostro naso, utilizzando il naso, a che temperatura arriva ai nostri polmoni? Giusto? Perfetto, dottor Speciani. Ecco, 800 24 00 24, il dottor Speciani ci ha portato due dei suoi libri, Le allergie, cause, diagnosi e terapie, quindi rispondete all'800 24 00 24 e argomentate, quindi certo, spiegateci perché l'aria arriva a una certa temperatura, quale se respiriamo con il naso e non con la bocca. Questo può essere anche un esercizio, no? importante, perché importante. Noi tante volte respiriamo più con la bocca che con il naso. Sì, che è scorretto, perché in realtà proprio sopra noi abbiamo è la via più veloce, quella del respiro, per il rapporto con gli odori. È immediatamente il contatto col cervello. Ci pensiamo, il cervello e i nuclei che recepiscono gli odori, i profumi, sono esattamente a pochi millimetri di distanza. È il percorso più rapido che possiamo fare per percepire il nostro mondo esterno. Abbiamo Sandra che ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Che effetto le fa la primavera, quest'aria di primavera che cerchiamo di sentire? Più l'aria è più profumata, ce ne rendiamo conto anche se viviamo in città, Sandra? Sì, in effetti io sono contentissima che sia arrivata la primavera, perché poi siamo da Roma, dopo questo gelo che abbiamo avuto, questa neve, però questo è il primo anno che io ho questi sintomi che non riesco a spiegare. Raffreddore la mattina, quindi starnuti continui, sonno durante il giorno e la sera crollo appunto tipo nel letargo e la mattina non riesco ad alzarmi dal letto. Ho 43 anni, non sono mai stata allergica a nulla, proprio assolutamente a nulla. Sono corsa in farmacia a prendere integratori, magnesio, potassio, perché ho detto devo fare qualcosa. E intanto però vorrei sapere soprattutto se può determinare, cioè se può esserci qualcosa di più grave sotto, oppure posso risolvere il problema e si risolve subito nel tempo, magari finisce appunto con tra qualche giorno, non lo so, se è solo l'aria di primavera. Quindi questo volevo chiedere al dottor Speciani, grazie. Achoo! dottor Speciani? C'era qualcuno in redazione. Allora, questi starnuti, Sandra dice, insomma, è la prima volta, però ha aggiunto anche una stanchezza e quindi tutta quella serie di sintomi che dicono sarà la primavera? È bella questa cosa, no? Perché in realtà c'è un'infiammazione di fondo, questa è la cosa potente. Per cui diciamo che sempre quando ci sono queste cose si lascia uno spazio per capire cosa sta facendo l'organismo. Sai, un po' quando ci sono i segnali dell'organismo, no? È come la pentola a pressione che sta facendo con la valvolina. Sì, se noi li chiudiamo specificamente senza renderci conto che c'è sotto un fuoco acceso, in realtà poi la pentola rischia di scoppiare, no? Per cui io porto sempre le persone che incontro a ragionare sul fatto che l'allergia, soprattutto quando compare per la prima volta, può essere un segnale, di guardarla con, non dicendo è solo il naso che starnutisce piuttosto che il corpo che ha una reazione localizzata. Può esserci un quadro generale che merita una valutazione. Poi ci sono strumenti anche più gentili, le piante che arrivano a dare delle irritazioni. Poi ad esempio ci sono dei rimedi omeopatici utilissimi, la diluizione di istamina, sinalia, l'olio di perilla, cioè sostanze che possono dare un aiuto. Però l'elemento fondamentale è davvero quello di capire cosa sta succedendo. Non è casuale, prima abbiamo detto che forse stiamo passando una fase di transizione anche a livello sociale di forte impatto emotivo, no? Ci siamo un po' abituati negli ultimi anni ad avere sempre situazioni di forte impatto emotivo, certo. Però in realtà poi agiscono nella persona in modo preciso. Quindi l'indicazione è davvero di provare a cogliere questo aspetto. Ci sono strumenti naturali per affrontare questo tema senza per forza appesantirsi con antistaminici che a volte fanno venire sonno piuttosto che altro. Ed ecco che la logica che io chiedo alle persone è: osservati, è la prima volta che capita, guardiamo, perché i segnali che ci dà l'organismo sono forti. Raccontateci i segnali che produce in voi, che si accendono con l'aria di primavera. 800 24 00 24, una stagione particolarmente felice, no? Se non ci fossero i pollini, che ad alcuni danno qualche problema, sarebbe la stagione ideale, ad esempio, per il nostro naso, perché ci sono miliardi di profumi anche nei parchi in città. Lei anticipava, dottor Speciani, che la vita si assapora anche con il naso, che non a caso è in una posizione strategica tra gli occhi e la bocca. Il problema è che il nostro olfatto mi sembra un po' addormentato. Allora io ho pensato di risvegliarlo facendoci aiutare da un grande naso che è in linea con noi. Laura Tonatto, benvenuta, bentornata, ciao. Buongiorno Nicoletta, grazie per questo invito, sempre molto gradito. Senti Laura, usiamo la primavera come una palestra per riattivare il nostro olfatto, ci aiuti? Dobbiamo assolutamente usare questa palestra meravigliosa e naturale, perché non solo ci fa scoprire un mondo straordinario che è quello dei profumi, ma riattiva tutti i sensi. Il naso è posizionato tra gli occhi e la bocca proprio per amplificare vista, gusto, ma anche l'udito. Noi se sentiamo una musica e vediamo Laura, ma questa musica sarà ancora migliore. E vi consiglio di fare passeggiate fuori porta, come ci porta l'istinto a fare durante questa stagione, per riscoprire innanzitutto l'odore del mare, perché l'abbiamo abbandonato per troppi mesi. E poi la natura inizia ad offrire le prime viole, ma poi narcisi, ginestre, la mimosa fra pochissimi giorni, giunchiglie, lillà, i fiori degli angeli. E invito tutti a fare le passeggiate con il naso aperto. Pensiamo anche nelle città, una città meravigliosa come Roma, la salita al Campidoglio ha un pergolato di glicine straordinario. Fra pochi giorni è una delle cose più profumate che si possano sentire in Italia. Vi consiglio di fare questa, ecco, dovrebbero, salita al Campidoglio. Laura, mi hai dato un'idea, potremmo suggerire a qualche sindaco di fare proprio delle gite per l'olfatto. Fatto, no? Di individuare, oltre che naturalmente i luoghi d'arte, anche i luoghi dei profumi, perché anche nelle nostre città noi giustamente ci lamentiamo, l'aria è inquinata, però soprattutto in questa stagione, in questo periodo dell'anno, che poi è breve se ci pensiamo, abbiamo proprio queste emozioni olfattive che non tornano, no? Rimangono poche e dobbiamo aspettare ancora un anno. Ma per chi non ha la fortuna di abitare in una città profumata, di andare al mare, possiamo esercitarci anche un po' nel nostro balcone, Laura. Ma assolutamente, pensiamo tutti tutti, abbiamo una rosa che fiorisce per vedere proprio questa magnificenza non solo visiva ma anche olfattiva, ma portiamo i bambini nei parchi, tutti i nostri parchi hanno un rosetto straordinario, ma ci sono anche tanti agrumeti. Pensate la prospettiva per esempio del Borromini a Palazzo Spada, sempre a Roma, in questo periodo si vede un'opera d'arte straordinaria affiancata ad un bosco di aranci, dove ancora oggi ci sono le aranci appese. Quindi vedere un'opera d'arte affiancata ad un'esperienza olfattiva è straordinario, ma anche passeggiare proprio con i bambini e farli scoprire l'odore dell'erba, fate sentire veramente quando raccogliete un fiore l'odore di questi fiori straordinari, perché la primavera veramente è il tripudio di tutti gli odori, e questo imprinting, se lo diamo ai bambini, durerà per tutta la vita. Tra l'altro, Laura, la ricerca lo dimostra, dottor Speciani, mi confermi anche lei, i profumi e odori attivano delle risposte anche non solamente emotive con il ricordo, ma anche proprio fisiche. Alcuni poi odori sono noti per il loro effetto sull'umore, sul comportamento, altri per il loro effetto nel rinforzare la concentrazione, la motivazione. Laura, dove ci consigli di mettere il naso? Allora, questa è la base di una scienza che in America c'è da più di 20 anni, in Italia da poco arrivata, la insegno all'Università di Cosmetologia di Ferrara, e questa scienza si chiama aromacologia. L'aromacologia studia le reazioni che hanno le persone quando inalano i profumi, e allora vediamo che splendidamente alcune tonalità come la vaniglia possono ridurre l'ansia e lo stress, l'abete invece riduce l'apatia, la depressione, altre spezie tolgono addirittura l'attacco di panico, il sandalo ci dà concentrazione, e non sono magie, sono assolutamente sensazioni, emozioni che ci cambiano l'umore. E il profumo del pane caldo, come l'erba appena tagliata, sembra possa migliorare l'umore, e allora io mi trasferisco in cucina, in una grande cucina. In linea con noi abbiamo Filippo Lamantia, cuoco. Ciao Filippo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Laura. Ciao Filippo, arrivo presto. Allora Filippo, noi vogliamo entrare in cucina per catturare il profumo della primavera in una ricetta. C'è una ricetta proprio tipica di questo periodo. Ma io vivo in mezzo ai profumi, infatti con Laura abbiamo questo grande parallelismo tra il suo mestiere e il mio. Oggi praticamente potrei proporre appunto un piatto che sta assolutamente di primavera, che ovviamente io ho modificato. Perché tu modifichi tutto. Che praticamente la frittella palermitana, qui a Roma è chiamata la vignarola con l'aggiunta della lattuga, però ma da noi praticamente ci sono solamente piselli, carciofi e fave, quindi primavera allo stato puro, solamente che io in più faccio un infuso, quindi come una camomilla, no? Quando uno prende quella bustina e la mette in acqua, faccio un infuso di bucce di cedro, alloro, anice stellato, e poi c'ho la miscela di mirto che è rosmarino e che finocchietto, quindi faccio questo brodo con cui poi praticamente cucino i piselli, i carciofi e le fave insieme appunto a questo brodo, e fuori ne viene un profumo straordinario. Dottor Speciani, questo le piace? Fantastico, nel senso che utilizza questa struttura creativa che è presente nei piselli, fave, utilizzando poi aromi che hanno davvero, lui ha citato delle cose che sono fantastiche dal punto di vista aromatico, ma che, come dire, contemporaneamente ti fanno assaggiare un prodotto avendone comunque l'effetto digestivo legato vuoi all'anice, vuoi all'oro, l'effetto rilassante della muscolatura gastrica come il cedro, cioè è furbo, nel senso che tu dici, se poi ne mangi tanta, quindi mi chiedi il doppio piatto, in realtà te lo faccio digerire lo stesso, quindi allora. Ora, ottime scelte. Questo è un piatto che vi suggeriamo per così catturare l'aria e il profumo di primavera proprio sulle vostre tavole. Grazie a Laura Tonatto e a Filippo Lamantia. Grazie a te Nicoletta e un abbraccio forte a tutti i radioascoltatori. Grazie, un abbraccio profumato da un naso straordinario. Andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, poi il meteo. Ricordate la domanda di oggi, ve la ripete il dottor Speciani: a che temperatura? A che temperatura entra l'aria nei polmoni respirando con il naso? Essere e benessere. Alle selve, alle foglie dei boschi è dolce primavera. A primavera gonfia la terra avida di semi. Allora il cielo, Padre Onnipotente, scende con piogge fertili e accende ogni suo germe. Gli arbusti risuonano del canto degli uccelli, i prati rinverdiscono e i campi si aprono. Si sparge la tenera acqua, ora al nuovo sole si affidano i nuovi germogli. Virgilio. Ecco, ci siamo tornati insieme, parliamo dell'aria di primavera, che effetto vi fa, vi tira su, vi tira giù, vi fa starnutire, vi rende stanchi. Abbiamo anche provato a cogliere nell'aria di primavera questi profumi che attivano emozioni, ricordi. C'è una scienza che si occupa proprio del rapporto, dell'effetto dei profumi, degli aromi sul nostro benessere, ma in benessere anzi, con la E aperta. Lorenzo, buongiorno dalla provincia di Como. Nicoletta, buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Dunque, vi chiamo per questa cosa. A me, immancabilmente, tutti gli anni, da 4-5 anni a questa parte, l'inizio di maggio provoca in me, starnuti, naso che cola, fino ad arrivare a delle punte acute con delle piccole crisi d'asma che devo curare con un ventolino, ecco, sì, che mi risolve il discorso bronchiale. Volevo appunto chiedere se si tratta semplicemente, come ho ipotizzato io, di un discorso legato a graminacee o similari, perché non ho mai effettuato un test a riguardo. Ecco. Maggio, il mese, ci mettiamo, ci vuole ancora un po' di tempo, però insomma. Maggio ha statisticamente un rapporto con le graminacee, quindi sono i fiori più presenti effettivamente nei nostri campi, nei nostri prati. Maggio abbiamo la presenza anche delle salicacee, quindi che sono poi quelli che in realtà fanno quei fluffy bianchi che volano fondamentalmente, e che però è meno frequente come reazione. Però è vero che se la situazione rimane localizzata dentro ad un mese in cui i sintomi sono controllabili, è una situazione da tenere sott'occhio. Cosa rimarco di quello che ci ha detto il nostro radioascoltatore? Che non credo che abbia 12 anni dalla voce, e che ad un certo punto improvvisamente la cosa è comparsa 4-5 anni fa. Cioè ci sono questi aspetti. 30 anni fa si diceva che uno è allergico da piccolo e poi gli passa. Oggi la gente sempre più diventa allergica da nel grande. Corso del tempo. E questo proprio porta ad un discorso ecologico, ambientale, in cui sta aumentando l'inquinamento, stanno aumentando gli stress emotivi, sta aumentando un'alimentazione scorretta. Cioè ci sono aspetti che devono farci ragionare. Si diceva è una goccia che fa traboccare il vaso. Gloria, buongiorno da Sondrio, e poi sentiamo anche Massimo che ci chiama da Caserta. Gloria, benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io sono assolutamente d'accordo con voi per quanto riguarda il discorso che l'allergia può essere qualcosa che fa traboccare il vaso, siamo troppo pieni. Io ho 33 anni, ho cominciato a essere allergica a 15 anni alla mela. Quindi ho cominciato con la mela per diventare allergica a quasi tutti i frutti, ogni anno se ne aggiunge uno, e ai pollini. Quindi io sono già 10 giorni più o meno che starnutisco, che sembra che stia piangendo da tutto il giorno, che mi pizzica la gola. Allora la mia domanda è, arriverà un giorno che non potrò più mangiare nulla, perché poi ovviamente tendo a... non potendo mangiare la mela mi butto sulla pera, l'anno dopo sono allergica alla certo. pera. Quindi guarda, ti rispondo con una indicazione positiva, perché in questo periodo abbiamo bisogno di proiezioni positive sul futuro. I bambini nascono allergici e intolleranti a tutto, e nel corso del primo anno imparano a creare tolleranza nei confronti degli alimenti e delle sostanze. Purtroppo in ambito allergologico esiste un po' la tendenza di andare contro natura, cioè se hai un problema togliamo, anziché rieducare, che è un criterio di fondo estremamente importante. In alcuni dei libri che abbiamo discusso, anche in altri momenti, non è questo l'argomento specifico, però parliamo proprio di questa cosa bella che è la possibilità di rieducare l'organismo attraverso strumenti semplici in mano a tutti, perché riprenda il pieno contatto con le cose da respirare e da mangiare. Massimo, buongiorno da Caserta, e poi Carlo da Milano. Buongiorno Massimo. Buongiorno. No, niente, io volevo dire che praticamente sono 3-4 anni che la mia capacità olfattiva praticamente è quasi scomparsa, se non ricompare quando ho episodi di raffreddore. E in effetti io ho fatto un test allergologico e mi ha detto che sono allergico agli acari della polvere. Polvere. Da 3-4 anni, insomma, non è diventato allergico da grande, come diceva il dottor Speciani, ed è molto fastidioso perdere l'olfatto. Questo avviene proprio, torniamo al concetto di infiammazione, e lo spiego alle persone dicendo che a casa su qualcosa che brucia verserebbero dell'acqua. Lo stesso fa il corpo, cioè butta dei liquidi che quindi rende, come dire, paffute le nostre mucose, quindi facciamo poi fatica a sentire odori. È un altro segnale da tenere da conto. Carlo da Milano, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi accolto. Volevo fare una domanda forse un po' banale. Io soffro di allergia e nel momento della crisi faccio degli starnuti che posso definire così esplosivi. Peccato che non gliene viene uno in onda. Perché così siamo terapeutici, noi siamo terapeutici. E mi chiedevo, va bene lasciar sfogare questi starnuti? Può creare problemi o è meglio contenerli? La risposta è assoluta, che quando c'è uno starnuto è un meccanismo con cui l'organismo sta cercando di allontanare qualcosa da sé. Tutte le manifestazioni allergiche tendono a buttare lontano e quindi serve. Una situazione in cui uno starnuto esplosivo fosse bloccato rischia di determinare uno scoppio dei timpani piuttosto che... Però devo dire che anche a me partono delle raffiche di starnuti e... Forse un nostro esperto mi ha insegnato che quando tu non puoi starnutire, magari ne hai già fatti 4-5, tutti ti svoltano, sì, ecco anch'io. Allora, se lei si pizzica, il dottor Speciani è preoccupatissimo perché dice: questa che cosa starà dicendo? Lei si pizzica la punta del naso e la tira un po' in alto, ecco, si trattiene meglio lo starnuto, confermo, è vero? Confermo. Cioè, la punta del naso aiuta a fermare almeno temporaneamente lo starnuto. Carlo, provi, poi io e lei ci scriviamo. Trovo che starnutire in questo modo mi aiuti in qualche maniera, non volevo bloccarli, anzi no. la mia tendenza è quella di farli, contrariamente a quello che dice mia moglie che mi rimprovera, è di farli il più possibile esplosivi perché mi aiuta a liberarmi. Senta Carlo, se da adesso fino alle 11.58 le venisse uno starnuto, faccia subito il nostro numero verde che le ricordo è 800 24 00 24, l'aspettiamo con uno starnuto, ma di quelli veri. Vito, buongiorno da Trieste, benvenuto. Ah, buongiorno e vi auguro una buona giornata a voi tutti. Guardi, io ho un problema, ho 56 anni, sono da 2 anni circa che verso la primavera, verso fine marzo, aprile, incomincio a starnutare tutte le mattine 7, 8, 10 starnuti e poi più in là, verso fine aprile, incomincio a colare il naso, gli occhi gonfi, però non ho mai fatto una prova di allergia. E mi hanno detto, delle persone che hanno dei problemi, che c'è un farmaco che si chiama Ribesinigrum in gocce che aiuta. Proverò a prenderlo se mi fa qualcosa. Allora, che ci sia una componente allergica quando è il terzo o quarto anno di fila che succede qualcosa sempre nella stagione della pollinazione è ovvio. Prima avevo detto che mi piace questo aspetto della natura, quindi della natura che da un lato crea un problema, dall'altro lo aiuta a risolvere. È vero, ci sono prodotti, l'ho citati, il ribes, la perilla, elementi che possono quasi aiutarci a riportare in equilibrio proprio la reazione infiammatoria in modo naturale. Quindi ci sono molti aspetti che possono essere riequilibrati, anzi posso dire che una delle patologie, delle terapie più discusse come l'omeopatia, proprio i lavori scientifici fatti su questi ambiti sono proprio sulla componente allergica, quindi ci sono alcuni rimedi che possono funzionare egregiamente. E a voi che effetto fa l'aria di primavera? Chiamateci 800 24 00 24, un numero che dovete fare anche per rispondere alla domanda di oggi che riguarda appunto a che temperatura entra l'aria nei nostri polmoni quando respiriamo con il naso. Sia che faccia freddo sia che faccia caldo, ovviamente. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo insieme. Essere e benessere. Tu sei quel respiro che mi toglie ancora il fiato, il solo nome che mi viene, come cerco le parole, ho visto nubi andare altrove e tu sei il cielo che è restato, la luce che piange negli occhi, quando piove con il sole, tu sei la neve che ha imbiancato i giorni grigi. L'aria frizzantina di primavera risveglia anche i sensi, l'interesse, il feeling, insomma sembra che la primavera risvegli anche l'ormone, come si dice. Dottor Rossi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, è vero, è assolutamente vero, perché cosa succede in primavera? In primavera ci scopriamo. Allora, scoprendoci, liberiamo più facilmente gli odori del nostro corpo, e gli odori del nostro corpo, contenendo anche i ferormoni, sono dei potentissimi richiami sessuali. Nel senso che gli odori richiamano attraverso l'amigdala, che è una ghiandola del cervello che funziona un po' da filtro, richiamano delle sensazioni conosciute nel passato di piacere e aumentano il desiderio. Quindi, dottor Rossi, la primavera è una stagione particolarmente intrigante, meglio approfittarne. Assolutamente sì, poi teniamo conto dell'altro fattore importantissimo: in primavera aumenta il periodo di luce e quindi questo fa diminuire la melatonina, la produzione di melatonina, e la diminuzione di melatonina fa aumentare la produzione di ormoni, tra cui il testosterone, che è l'ormone del desiderio, quindi è un momento di grandissimo risveglio. E quanto dura? Dura fino all'autunno. No, nel senso che di questi tempi meglio approfittarne, no? Adesso subito, perché la primavera è comunque il momento del passaggio, è quello comunque migliore, perché si riesce ad assaporare di più il sapore della conquista, del gioco della seduzione, dello stare insieme, del condividere delle situazioni. Dottor Speciani, ci saranno i pollici. Però ci sono anche i feromoni sono fantastici, tra l'altro, che per girano. Noi, se pensi che questa cosa è stata fondamentale, nel senso che un minimo di corteggiamento in primavera per una realizzazione operativa estiva consente ai figliolini di nascere quando c'è la primavera successiva. Per noi significa che col freddo esistente è una condizione che ha garantito alla specie umana di sopravvivere. Quindi il bambino che nasce in primavera in realtà ha meno freddo e meno esposto. Quindi c'è stata una funzione evolutiva importante. Comunque questa cosa della primavera è pazzesca, nel senso che la gente arriva dicendo: dottore, sono malato perché vedo delle cose, rivedo le gonne corte, vedo le gambe, non le vedevo durante l'inverno, no? Dottor Rossi, le raccontano anche a lei queste cose? C'è quasi uno stupore nel risveglio? C'è un grandissimo stupore, perché proprio come un passaggio da una situazione di tipo di stile depressivo a un momento invece di esplosione dei sensi e delle emozioni, per cui questo molte volte crea uno shock anche emotivo nelle persone. Però è uno shock piacevole. Sì. Non tutti gli shock devono essere per forza negativi, anche gli shock piacevoli hanno una loro necessità e vanno benissimo in questo caso. Allora, benedetta primavera, dottor Rossi. Assolutamente sì, è il momento in cui veramente i sensi si devono proprio assaporare fino all'ultimo secondo proprio. Ci arrestano adesso. Adesso ci arrestano con le indicazioni Rossi, che dà. Grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo qua in studio. Buona giornata. A presto, grazie. Federico, buongiorno da Udine, Domenico da Palermo, se riusciamo rapidamente, perché poi abbiamo mi segnalano dalla regia che c'è un ascoltatore che vuole rispondere alla nostra domanda. Devo dire che siete in tanti e oggi abbiamo due libri e quindi daremo un libro a chi ci ha risposto al 349-238-6666, ho già individuato chi, poi vi racconterò e vediamo se l'ascoltatore poi ci darà la risposta giusta. Federico, buongiorno, rapidamente. Buongiorno, volevo raccontare la mia esperienza da allergico. Voi sostenete che il fisico col tempo si adatta all'allergia e quindi questa dovrebbe ridursi nel no. tempo. No, diciamo il contrario. Non mi sembra che il dottor Speciani abbia detto questo. Comunque, a me la cosa che succede è che ogni anno si presenta in maniera diversa. Bello. Ci sono degli anni in cui riesco a sopportarla benissimo senza prendere dei farmaci e degli anni in cui devo farmi di antistaminico per 2 mesi. Questo è bello, però l'abbiamo detto. Il dottor Speciani dice bello perché non ce l'ha lui l'allergia. No, non è vero. Qui è bello nel senso che è l'espressione è intanto della capacità di adattamento dell'organismo. E poi riprende questo tema così caro alla Montalcini che ho segnato prima, che ho indicato prima, cioè che esiste anche una componente che non è solo della parte fisica del polline, ma anche di una parte legata alla componente emotiva, psicologica. Ha vinto il Nobel su questa cosa qui, su questa sostanza, e quindi in relazione a come uno sta vivendo la sua situazione emotiva e personologica di quel periodo, può essere che l'allergia si presenti in modo più intenso o meno intenso, quindi è un buon segnale, no? Domenico, non sarà tanto contento il nostro ascoltatore quando arriva in modo intenso, ma Domenico da Palermo, buongiorno. Buongiorno, io sto telefonando per mia figlia. Mia figlia è allergica all'alternaria, ad un livello molto alto, al quarto livello. All'alternaria, che è una... Sì, non lo sentivo. Ci hanno detto che qui a Palermo il problema non esisteva perché abbiamo questo clima, ma invece è tutto il contrario, qua il problema è abbastanza forte, meno al nord. Ci hanno detto che è scoppiato questa allergia a seguito della vaccinazione antinfluenzale. Non so se, se questo può essere indicativo. Ha dei grossissimi problemi mia figlia, adesso non neanche può più uscire di casa perché è sempre allergica, ha sempre problemi a stare in giro e uno dei problemi che si ripercuotono su questo è la presenza di reflusso gastroesofageo. Quindi un quadro abbastanza complesso che merita la visita di un allergologo e medico in termini generali, e per fare una diagnosi. Poi ci sono anche i vaccini per alcune, no? Per cui dottor è un tema complesso che sicuramente non può essere risolto chiacchierandone telefonicamente a distanza, però è vero che l'allergia alle muffe è un tema interessante perché coinvolge, pensiamo a quando noi entriamo in una strada e diciamo qui c'è odore di muffa, no? Sì. Ecco, quante volte muffe, spore di miceti eccetera sono in giro per l'aria e noi non ce ne rendiamo conto, anche a casa nostra, certo, perché quindi non sempre le macchie di umidità di sulle muffa. Pareti, certo, quindi è un tema, grazie, ha sollevato un tema veramente importante. Insomma, siamo circondati, ma abbiamo anche la capacità di resistere perché abbiamo il nostro sistema immunitario che si attiva. Fabio, buongiorno da Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vuole rispondere alla nostra domanda? Sì, esatto. Io mi ero fatto una teoria che non so se è giusta. Dai, la racconti, dai. Allora, secondo me è tra i 35 e i 36 gradi, che poi altro non è che la temperatura corporea. Perché secondo lei, Fabio? Perché attraversando i canali del naso l'aria ha sufficiente tempo per andare in equilibrio termico col sangue che ci circola nei vasi all'interno del naso, e a quel punto lì raggiunge con la temperatura. Fantastico, un applauso. Senti, Fabio, è stato bravissimo. Bravissimo. Ecco, io posso aggiungere che non ha sufficiente tempo, riesce a fare questo tipo di scambio in un tempo rapidissimo. È fantastico, abbiamo una capacità di filtro nel nostro naso che è meravigliosa, è vero quello che ha detto, ma non è perché impiega tanto tempo, siamo velocissimi nel fare. Perché fare cambio. Un respiro con il naso quanto ci mettiamo? Pochissimo. E poi subito si riscalda. Esatto, o si raffredda. O si raffredda, perché infatti abbiamo detto indipendentemente dalla temperatura esterna. Ho respirato troppo forte, adesso sternutirò. Ma va bene, è in tono, perfetto, fantastico. Che sarebbe perfetto. A Fabio da Milano, il libro Le allergie cause diagnosi e terapia di Attilio Speciani, Tecniche Nuove Editore, come al primo ascoltatore che ci ha mandato la risposta corretta, che vi segnalo, ma adesso non lo vedo più perché sono arrivati tanti messaggi, ma che verrà contattato dalla nostra redazione. Dottor Speciani, in conclusione di questa puntata in cui abbiamo parlato di aria, di profumi, di ormoni che si risvegliano, di starnuti che fanno bene, di modi e metodi un po' bizzarri per evitare di starnutire, lasciamoci con un messaggio primaverile. No, il messaggio primaverile è quello, per favore, di non fare il cambio negli armadi, perché, perché sono anni, altro che allergie che ritornano, ogni volta che si fa il cambio primaverile degli armadi e si mettono i vestiti leggeri, probabilmente piove e nevica per circa 15 giorni. Quindi teniamoci un po' indietro e rispettiamo le stagionalità nel loro normale fluire. Pensi che invece io dicevo, se è così, quasi quasi, domenica non lo fare, ti prego. Allora vi prometto, non farò il cambio degli armadi. Ci sentiamo lunedì, grazie per essere stati in nostra compagnia.